Ken Campbell, un dentista della California. Questi burocrati, dice, a Washington non sanno niente della mia famiglia. Il signor Campbell ovviamente è contrario a questa riforma. Non conoscono il mio nome, non conosco il nome dei miei figli, non debbono dirmi cosa abbiamo bisogno di fare e cosa non abbiamo bisogno di fare, devono uscire dalla nostra vita. Ecco, questa posizione che si distacca dall'intervento dello Stato, antistatalista, per la libertà nel senso assoluto, è molto molto diffusa, non soltanto negli ambienti repubblicani, ma in una buona parte dell'opinione pubblica americana. This bill is unconstitutional as it stands. We are not against healthcare reform. We are just against this current law. Amy Brighton, attivista del Tea Party, dice: questa legge è incostituzionale. Io non sono contraria a una riforma sanitaria, ma sono contraria a questa legge. Ecco, vi ho dato questo spaccato perché su questa riforma sanitaria si è discusso nel momento in cui doveva venire approvata. Barack Obama ha pagato un prezzo altissimo, ha perso la maggioranza alla Camera. L'opinione pubblica americana ha risposto in modo negativo proprio a questa riforma sanitaria. Non ha coperto tutti gli americani, comunque una decina di milioni di persone sono rimaste fuori dalla riforma, e c'è da chiedersi ovviamente quale sarà l'impatto politico della decisione della Corte Suprema. Tutti aspettano. In realtà l'esito, anche se dovesse essere bocciata o bocciata in modo parziale, l'esito avrà un impatto relativamente modesto, secondo me, su Romney, su Mitt Romney, perché lui stesso in Massachusetts aveva approvato una proposta di legge per la riforma sanitaria, pensate, non molto dissimile da quella che poi Obama ha adottato per il paese. So let me tell you a bit about Nexus 7. It's super thin, light and portable, and yet we've managed to pack a lot into this device. Vic Gundotra, Senior Vice President Social Business di Google, ha introdotto ieri un nuovo prodotto, un tablet della Google. La Google entra a gamba tesa contro Apple Computer, pensate, erano in società, si sta scatenando nel settore avanzato dell'elettronica, un settore che vi riguarda direttamente perché tutti voi usate ogni giorno telefonini, smartphone, saranno usati sempre di più. Ecco, c'è una battaglia in corso che alla fine sembra, si dice, dovrebbe avvantaggiare il consumatore, dunque voi ascoltatori. La Google, vi dicevo, ha prodotto questo Nexus 7, prodotto in collaborazione con Asus e Nvidia. In realtà è un prodotto non avanzato, o comunque non avanzato come quello della Apple Computer, va più sul mercato di Amazon, ma in prospettiva sappiamo che la Google vorrà entrare nel mercato a tutto campo. Su un altro fronte, la Apple invece è riuscita a ottenere da un tribunale federale della California il blocco della vendita negli Stati Uniti del nuovo tablet di Samsung, il Galaxy Tab 10.1. Anche di questo vi avevo parlato, vi avevo raccontato della litigiosità di Silicon Valley. Ebbene, per ora 1-0 per la Apple contro la Samsung. Anche la Microsoft aveva presentato, giusto per la cronaca, un suo tablet una decina di giorni fa, Surface, che utilizza il sistema operativo di Windows. Dunque, grandi rivoluzioni nel settore informatico dei handheld devices e nel modo di comunicare che ci aiuta ogni giorno, non soltanto dal punto di vista del lavoro, ma dal punto di vista sociale e della nostra vita privata. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. La canzone di oggi voglio dedicarla a Nora Ephron, grandissima sceneggiatrice, una donna straordinaria, ha scritto alcuni dei film più belli del nostro tempo, è stata anche regista, ha scritto dei libri, era, devo dire, l'emblema stesso di New York, la si vedeva in giro da ogni parte, sempre piena di vita, con una storia personale incredibile, era sposata con Nicola Spileggi, un autore italo-americano, e ha detto che, insomma, la vita davvero è compiuta quando ci si sposa con un italiano. Prima di lui era stata sposata con Carl Bernstein, il grande giornalista che con Bob Woodward scatenò lo scandalo Watergate. Una donna dunque che è stata al centro della storia americana. I suoi film vi consiglio di andarli a rivedere, Sleepless in Seattle, meraviglioso, vi metterà di buon umore, ma anche When Harry Met Sally e anche I Got Mail. E dunque, tratto da Sleepless in Seattle, Celine Dion, When I Fall in Love, con Clive Griffin, dedicato alla grande, grandissima Nora Ephron. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. Let me give my heart, and the moment I can feel. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!